Devo dire che la responsabilità del direttore aveva un senso quando è stata immaginata, 8 pagine battute in tipografia, si potevano leggere con calma. Appunto. Adesso, sempre questa legge che sta in discussione, sta addirittura ampliando la responsabilità del direttore delle testate Ho registrate, visto. ampliandole anche alle versioni online. Sì. Tutto Quindi Ferruccio De Bortoli o quello Alessandro, che c'è, tutto in tempo che è reale. chiaro che non ha nessuna possibilità di Nessun esercitare. senso. E anche per le produzioni firmate. Intendo dire, se lei fa un articolo e firma Oscar Giannino, si immagina che abbia fatto le sue verifiche e si assume la responsabilità. Che No. senso ha che il suo direttore ne risponda per l'omesso controllo, avendo lei che ha già fatto le verifiche necessarie? È una bella domanda, però perché questo non è chiaro al legislatore? Questa è anche una bella domanda, ancora una volta, perché secondo me non c'è una grande volontà politica di intervenire in questa materia. Perché lei immagini quanti sono coloro che hanno in mano la legge, che hanno fatto querele o che hanno fatto cause civili a giornali e giornalisti? Lei metterebbe un tacchino a scegliere se è andata lì e si No. mangia carne o Direi di pesce? no, direi di no. Però naturalmente non si può prevedere l'ipotesi che il legislatore sia mondo dall'aver esercitato i suoi diritti di tutela nei confronti di questa brutta bezzaraccia che sono quelli dei giornalisti. In realtà questa dovrebbe essere una delle caratteristiche. A metterci mano dovrebbero essere quelli che hanno meno propensione alla querela o che incidono o che incappano in meno querele. Naturalmente non si può fare, ma dovrebbe essere così. Eh sì, dovrebbe essere così.